E ancora un'altra. Questa qua mi sa che la conoscete bene, no? Yeah, 2011, yeah. Zio Harsh Times. Oh, diglielo. Yeah. No, non glielo vuoi dire. Jimmy Tights. Che pensate a vergognare? Mad Man. Dai, raga, basta chiacchiere, fare gli detti sto rap. Dai. Arch. Il giorno che ci batti frenetica, siamo il mondo nuovo come l'America. Se rappiamo tutti in mano c'hanno la steadicam, i tuoi amici vorranno una replica. Dacci il braccio, ti facciamo la dedica, ogni altra tua richiesta è patetica. Tu chi sei per farmi la pratica? Chi ci chiama fake farnetica? Ci critichi non c'entra l'etica. Il mio terzo dito è la tua segnaletica. Questa merda per te è terapeutica. Non hai la doppia faccia tetraedrica. Io c'ho tanta merda fuori, tu ne hai poca dentro. Non rallento, so che c'hai soldi, non talento. Se parli male ti si schioda il mento. Come se provengo Yare con che mentos. Mo ti prende male che non sto cadendo. Non la puoi fermare sta combo da cento. Invece che guardare il mio comportamento, smetti di repare, c'è il collocamento. Tutto sulle donne fra come Almodovar, yeah. Tu ancora ci limoni come al campo scuola. Provi a seguire le mie orme ma manco suona. Sei la mia copia deforme, zio, sei Uncle Dolan. Sulla base George Best, Gianfranco Zola. Voi manco passate il test, al banco prova. White o purple, bianco o viola. Fumo un grammo ogni quarto d'ora. Perdi il sonno zio, giorno dopo giorno scrivi. Io mi aggiorno due tre volte al giorno come il porno streaming. Senza rime non restiamo un altro giorno vivi. Ci pagano per divertirci come i porno divi. DJ Arch, join Von Purini. Noi soci, voi froci, concubini. Inutile che mandi tutti i cuoricini. Mi sa che t'ascoltano solo i tuoi cugini. Non mi puoi superare, smetto dopo il mio funerale. Stile che non puoi più fermare, rime che non puoi numerare. Ci copiate ma pure male, rime brutte tipo tutte in area. Si deforma la strumentale, vedi l'ombra del nucleare. Mangio gli scarsi a colazione, faccio gli incastri a rotazione. Scacco matto in quattro passi, quattro assi in dotazione. Tu c'hai solo quattro sassi, fatti l'assicurazione. Perché se alzi bassi fra ti scassi in articolazione. Se ci ascoltassi e catturassi questa innovazione, capiresti perché con i miei testi è sempre un'ovazione. Bevo la bocca che mi viene la gotta. Mi credi figo ma non me la tiro, sti testi li scrivo in canotta. Porto la fotta, passo dal palco, fanno la locca. Flow da mitomane, tu una giovane marmotta. Scriviamo a quattro mani, manda quattro gambe. Al mio concerto gatto navi, stadi a quattro zampe. Flow spattonante, ho fatto un altro anthem. Hater Blue, facci fare quattro stampe, yeah. A prova d'odio, non contro chi odia. Yeah, imparatevi l'inglese.